Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Change, give me hope, give me help, and give me high along the way. Yeah, salve, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta il mondo dal punto di vista di tutti gli animali, con un'attenzione particolare a quelli non umani. Questa settimana torneremo a parlare di orche, ma tratteremo anche di cinghiali, di giacconi cruelty free, di sperimentazione animale e del concetto di animalità. Why is it so damn hard just to have an easy time? Abbiamo raccontato la settimana scorsa la vicenda delle orche avvistate al largo della città di Genova. Come si temeva, il cucciolo del branco, che appariva già in evidente difficoltà, è morto nei giorni scorsi. I media hanno documentato con fotografie e filmati la disperazione della madre del cucciolo, che ha tentato invano di tenere a galla il piccolo anche da morto, prima di arrendersi, ma dopo qualche giorno, di fronte all'evidenza. Le orche sopravvissute sono ancora in zona e resta quindi aperto il dubbio sulle ragioni che le hanno spinte in un luogo così poco ospitale per loro. Al momento, ha spiegato la biologa genovese Silvia Mangraviti in un'intervista, è impossibile sapere con certezza perché succede. Possiamo solo fare delle ipotesi. Potrebbero essere malate, se non tutte comunque alcuni membri del gruppo. E per questo tutte rimarrebbero in una zona molto bassa e riparata dalle onde. Oppure, questa è la seconda ipotesi, sono completamente disorientate da suoni molto forti e cambiamenti nelle temperature delle correnti. Nello scenario migliore, sostiene Silvia Mangraviti, la madre sta ancora elaborando il lutto dopo aver perso il piccolo. Gli studiosi, insomma, non escludono niente, nemmeno che le orche abbiano ingerito molta plastica e che questo abbia alterato le loro funzionalità. Si tratta in ogni caso di una tragedia che segnala il malessere profondo dei nostri mari, un malessere noto quanto trascurato. Sull'emergenza climatica la retorica è molta, ma la consapevolezza resta minima e le azioni pressoché inesistenti. Gli animali sono fra le prime vittime del riscaldamento globale e dei suoi effetti. Il fatto di averli esclusi dalla considerazione sta precludendo alla società contemporanea la possibilità d'essere cosciente di quanto ci accade intorno. Current news wagon. Le tragiche notizie sulle orche, come abbiamo visto, ci hanno aperto la strada a qualche considerazione sul nostro essere animali, una condizione per lo più negata, col risultato di allontanare il mondo contemporaneo dalla propria reale condizione. I gruppi umani sparsi sul pianeta sono una parte, e neanche la più numerosa, degli esseri viventi che abitano la Terra, ma non riescono, se non in piccole minoranze, a percepirsi per quel che sono, semplici inquilini, che sarebbero tenuti a preservare gli spazi vitali di tutti. Francesco De Giorgio da qualche settimana cura una rubrica per Restiamo Animali dedicata proprio all'animalità, quindi alla relazione fra le persone umane e gli altri animali, in un rapporto complicatissimo e pieno di contraddizioni. Per la quinta puntata, Francesco De Giorgio prende spunto dai cani, animali, a differenza di quel che avviene per le orche, che tutti conosciamo benissimo, o che perlomeno pensiamo di conoscere. Sentiamo. Buona animalità a tutte e a tutti. Oggi vorrei porre l'attenzione su una questione ancora molto controversa e critica per molti aspetti, anche all'interno di una dimensione antispecista, ma che per me è molto chiara se vista dalla prospettiva animale, attraverso proprio una logica animale. Spesso, infatti, soprattutto riguardo ai cani, quasi come se fossero una specie eletta rispetto ad altre, c'è la tendenza di valorizzarli quando partecipano ad attività umane, come se non avessero una vita propria, come se fossero derivati dalle costole del Dio umano e quindi imprescindibili da esso. Ci siamo così abituati a vedere i cani al ristorante, al bar, al centro commerciale, e in molti altri luoghi, devo dire, bizzarri, se guardati dal punto di vista di un cane, di quel cane. Capita anche, paradossalmente, di trovare cani letteralmente tirati per il collo durante cortei e manifestazioni anche antispeciste, dove cori che inneggiano alla liberazione animale contrastano con l'immagine di presenza di cani spesso anche strattonati per stare buoni ed educati durante la marcia. Questo non è assolutamente ammissibile in nessun contesto, a maggior ragione se contesto antispecista. Perché, mi chiedo, i cani vengono portati e trascinati in ogni dove, mentre, fortunatamente per loro, maiali, asini, macachi, tigri, ricci, cavalli, mufloni, vipere, capre, oche e galline no? Da una parte c'è una specie di cinospecismo che eleva i cani sugli altri, dall'altra e allo stesso tempo i cani vengono oppressi per questo insano modo di vivere la loro animalità, anche attraverso quell'ideologia che li vuole vedere inclusi in una società fin troppo umana, trasformando anche i cani in umani, o meglio in cittadini, anzi in bravi cittadini, fornendo anche un brevetto, una patente o un tesserino, ingrassando l'industria della cinofilia più che essere una lotta antispecista. Questa problematica di singolare, forzata e addestrata inclusione dei cani nella nostra società deriva sempre da ideologie della domesticazione, che affascina gli amanti dei cani, e già parlare in termini di amanti, come spesso si fa, dice qualcosa su quanto distorto e specista sia un mondo che crede di valorizzare una specie mentre nega quella specie e le altre. Ed ecco che le favole appunto sulla domesticazione si alternano a quelle sulla codomesticazione, che sembra più buona, o a quelle sulla coevoluzione, che sembra più biologica. Mentre invece della domesticazione dovrebbe essere preso atto come fatto non del tutto positivo per l'animalità, invece che enfatizzarla quasi come un qualcosa di leggendario. Soprattutto se vogliamo sentirci e viverci antispecisti e non amanti di cani, di razze e di bravi cittadini a quattro zampe. e piuttosto che trascinare i cani a fare la spesa, a fare l'aperitivo o a fare una marcia di protesta, bisognerebbe seguire i cani e altri animali su un sentiero nel bosco, lungo un crinale, nell'avventura, nell'esperienza, in definitiva nella vita, in una vita veramente animale. Questo significa liberare l'animalità, anche l'animalità umana. Questo significa incontrarla e rincontrarla, non in un processo di ulteriore reificazione, in cui gli animali diventano oggetto, ma in un divenire, anzi in un ritornare, di logica animale, dove anche noi animali comprendiamo un buon senso animale, agiamo attraverso un buon senso animale, che non sta nell'assegnare ai cani ruoli, funzioni, posizioni, ma nel liberarci da quell'eco specista che ruota intorno alla cinofilia, che vuol vedere i cani coinvolti in ogni dove e in ogni cosa, un eco zoofilo alla fine più che animale, una voce di umanità più che di animalità, un falso patrimonio di cooperazione più che una vera immagine di coesistenza. Ed ecco che il cane, quell'animalità, torna a riappropriarsi della sua biologia, non della sua razza, della sua evoluzione, giammai della domesticazione e neanche della codomesticazione. Non più dimostrando quanto sa essere bravo cittadino, non più quanto sa essere in simbiosi con l'umano, non più quanto sa essere educato, non più, alla fine, quanto sa stare in un qualsiasi contesto basta che ci sia il suo umano, ma quanto sa essere pregna e degna la sua voce animale, quella voce che pone domande al mondo, quella voce protagonista di vita, quel suo camminare in un mondo che non chiede la sua attenzione, ma che invece pone attenzione alla sua attenzione. A risentirci, quindi, su Restiamo Animali. I am humbled and I am free. and I can feel all those colors, baby. Pour back into me. Blinky in the daylight, crimson at night, yeah. Crimson at night, here I love you, here I love you. And in those times when I was blinded, colors faded away, bleached by my own sadness. I was slipping into that grave, but now it's here. Blinky in the daylight, crimson the night, yeah. A proposito dei rapporti che stiamo intessendo con gli altri animali, possiamo considerare un'altra notizia che arriva da Genova, una città che in questo periodo sembra alle prese con i selvatici sia in mare sia sulla terraferma. Il caso riguarda un cinghiale, ripreso con fotografie e brevi filmati mentre attraversa una strada sulle strisce pedonali, accompagnato da un vigile urbano che gli indica la via. Il cinghiale proveniva probabilmente dal vicino torrente Bisagno e, a giudizio dei testimoni, aveva un atteggiamento piuttosto rilassato, del tutto pacifico. Si era probabilmente avvicinato troppo alle case, perdendo poi la via del rientro verso un'area selvatica, forse frastornato dai rumori e dai movimenti caotici della città. Insomma, niente di preoccupante, anzi un intermezzo, tutto sommato divertente per i passanti. La storia però non ha un lieto fine, perché poco dopo l'attraversamento, la polizia locale è intervenuta in altro modo, per fucilare l'animale, colpevole evidentemente di aver perso la strada per il rientro lungo il torrente. È stata un'esecuzione a sangue freddo, sul bordo di una strada laterale, in esecuzione di una legge regionale che dà facoltà, anzi obbliga di fatto all'uccisione di animali di passaggio potenzialmente pericolosi per la circolazione stradale. Questo tragico episodio ci pare una metafora perfetta delle vite che conduciamo nelle nostre città. Ogni volta che un individuo libero, un estraneo, non ancora sfiancato dalle costrizioni e dalle paranoie cittadini vi si affacci, la risposta è il rifiuto, fino all'uccisione immediata e senza processo, se questo individuo è un animale non umano, quindi non protetto. I sociologi urbani e i filosofi del contemporaneo dovrebbero riflettere di più sul rifiuto della convivenza con i residenti permanenti e temporanei non umani delle nostre città, e specialmente con quelli selvatici, che sono i più liberi, quindi i più scomodi per il confronto. And I, we might be strangers, however close we get sometimes, it's like we never met. But you and I think we can take it, all the good with the bad, make something that no one else has but you and I, you and I, me and you. What can we do when the words we use sometimes are misconstrued? Parliamo spesso e restiamo animali di sperimentazione scientifica sugli animali, convinti come siamo che i canoni risalenti all'Ottocento di questa pratica dovrebbero essere aggiornati su basi etiche e anche scientifiche, nonostante il rifiuto opposto dalla maggioranza dei tecnici, ai quali però non può essere delegata la facoltà di decidere per tutti su questioni così importanti. Nella galleria degli orrori che costella la storia della sperimentazione animale, documentata già 40 anni fa nel pionieristico libro Imperatrice nuda di Hans Ruesch, può essere inserita una notizia che arriva dalla Cina. secondo la quale nel laboratorio statale di Pechino per la ricerca sulle cellule staminali e della biologia riproduttiva sarebbero stati creati i primi ibridi scimmia-maiale, ibridi finalizzati a produrre organi di ricambio per trapianti non già su esseri umani, bensì su altri animali. Si aprirebbe quindi una nuova frontiera, quasi paradossale, perché propone una versione in qualche misura animalista, almeno in apparenza, pensando solo ai destinatari dei trapianti, di una ricerca scientifica che si rifiuta di mettere in relazione mezzi e fini e quindi rischia di prendere strade del tutto incontrollabili. Sembra che lo staff guidato dal professor Tang Hai, responsabile del progetto, abbia iniettato cellule di scimmia geneticamente modificate in oltre 4.000 embrioni di maiale prima di impiantarli in alcune scrofe. Da questa operazione sarebbero nati 10 maialini, due dei quali ibridi, cioè con tessuti del cuore, del fegato, della milza, dei polmoni e della pelle, costituiti da cellule di scimmia. I 10 maialini sono però morti nell'arco di una settimana. È assai probabile, tuttavia, che i ricercatori ci riproveranno e che altrettanto avvenga lungo la via dell'ibridazione fra uomo e maiale, una via già tentata in passato. La discussione sulla sperimentazione animale è sempre rimasta ai margini della scena a causa del blocco imposto dalla maggioranza, non dalla totalità degli scienziati e dei ricercatori. Ma prima o poi, anche di fronte a notizie come questa, un dibattito vero andrà aperto. Ind i dit øje, ud af dit ord, gennem de eneste på jord. Sempre a proposito di sperimentazione animale, va segnalato l'allarme lanciato dalla LAV, Lega Antivivisezione, che sta vigilando sul dibattito parlamentare in corso affinché non venga nuovamente rinviato lo stop dei test su animali per alcol, droghe e tabacco. Test per i quali il ricatto, peraltro poco fondato, delle vite da salvare attraverso gli esperimenti non può proprio valere. La proroga di 2 anni era contenuta in un emendamento alla legge di bilancio che poi è stato fermato, ma il timore che torni all'improvviso è alto. Perciò la LAV ha fatto appello al ministro della Salute, Roberto Speranza, affinché non conceda un ulteriore rinvio e sia coerente con se stesso, visto che l'onorevole Speranza, prima di diventare ministro, aveva firmato la prima legge delega che conteneva il blocco dei test. Vedremo se Speranza riuscirà a mantenersi d'accordo con se stesso. Vi terremo informati. You calling me Aspen? What'd you say your name is? Jack. Never done Jack. Glad to meet you. Who's your friend? Dick. Don't say Dick. What do you know? And you, friend, what's your handle? Don. Two thumbs down. Riding on the wrong chair. Anche questa settimana il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore del libro Cucina regionale vegana, edito da Newton Compton, dedica una ricetta a una delle notizie di questa puntata. Vi ricordiamo che tutte le ricette andate in onda finora sono disponibili sul nostro sito restiamoanimali.it. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. You just leave it all up to me. My love will be your light and existence. Ultimamente mi capita di dedicare la ricetta di questa rubrica alla memoria di qualche vittima. Questa volta un pensiero, una dedica attraverso una ricetta che è la mia forma di poesia, va al cucciolo di orca morto a Genova. la città da cui arriva il piatto di oggi. Gli ingredienti per 4 persone per i panigacci con salsa alle noci sono: per i panigacci 200 g di farina tipo 0, del sale e un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Per la salsa di noci 100 g di noci, mezzo spicchio di aglio, 100 g di mollica di pane, del latte di avena, olio extravergine di oliva e un cucchiaio di lievito alimentare in scaglie. You just leave it all up to me. My love will be your light and exercise, fresh mango in the morning. Iniziate preparando i panigacci. In una terrina mescolate la farina con acqua tiepida e un pizzico di sale, fino ad ottenere una pastella omogenea piuttosto liquida. Se non avete a disposizione i tipici testi di terracotta per la cottura dei panigacci, potrete utilizzare una comune padella antiaderente. Spennellatela con olio extravergine di oliva e fate scaldare a fiamma media. Versate un romaiolo di impasto al centro della padella e lasciate cuocere per alcuni minuti, girando frequentemente. Adesso preparate la salsa di noci. Lasciate la mollica di pane in ammollo nel latte di avena. Sbucciate l'aglio e privatelo dell'anima interna. Mettete le noci nel mixer e tritatele assieme all'aglio. Aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine e la mollica di pane che avrete strizzato bene dal latte. Macinate fino ad ottenere una crema omogenea. Scottate i panigacci tagliati a triangoli per 2-3 minuti in abbondante acqua salata. Scolate e condite con la salsa di noci e il lievito alimentare. Potete portare in tavola con delle foglioline di maggiorana. These days I watch the screen for what I need. I take my food on trays across my knees. Leaves are always falling from the tree. Chiudiamo con una notizia che arriva dal magico mondo della moda, spesso bersaglio dell'attivismo animalista. L'associazione PETA, una delle più conosciute al mondo, ha scelto il marchio Save the Duck come azienda dell'anno 2019. La motivazione dice che l'azienda è stata scelta per i suoi piumini vegani, per i suoi capi caldi ed eleganti senza piume, per aver espanso il mercato dell'outwear vegano di lusso in tutto il mondo ed avere risparmiato ad innumerevoli uccelli l'agonia di avere le loro piume strappate nella crudele industria dei piumini. Save the Duck è un'azienda fondata nel 2012 e a dire il vero non è l'unica a produrre giacconi invernali cruelty free di un certo successo. Un altro marchio molto conosciuto, forse meno prestigioso, è Quagga. Save the Duck, è importante sottolinearlo, ha aperto quest'anno il suo primo negozio in Cina, paese che è il maggiore fornitore di piume al mondo per questa superflua produzione di giacche imbottite. Secondo PETA, l'abbigliamento di Save the Duck vola molto più alto delle altre aziende di abbigliamento, che pigre e poco creative, come dice la presidente Ingrid Newkirk, si affidano a pellicce e piume di animali maltrattati e macellati. Secondo PETA, questi piumini italiani dimostrano che il futuro della moda è vegano. Con l'ottimismo di PETA chiudiamo questa puntata di Restiamo Animali. Vi saluta l'intera redazione composta da Francesca De Matteis, Roberta Marino, Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.